Mix 24 di Giovanni Minoli. Passaggio che apre la campagna per le primarie del 30 aprile. È una piccola polemica iniziale, subito chiusa. L'idea di rinviarle le primarie proprio per aiutare Emiliano, appoggiata da Orlando, stroncata da Renzi. Sul palco ad avvicendarsi e soprattutto sfidarsi loro i tre contendenti, Matteo Renzi, Andrea Orlando e a distanza Michele Emiliano, in piena convalescenza, fresco di intervento al tendine d'Achille. Presenti le polemiche anche in zona Andrea Orlando, che a sentire i renziani avrebbe preso il 25,4% e che invece ritiene di aver ottenuto quasi 4 punti in più. Andrea Orlando, buongiorno, ministro di giustizia e soprattutto in questo caso candidato alle primarie. Buongiorno. Senta, pronto? Pronto? Caduta la linea col ministro Orlando, proviamo a ristabilirla. Il numero l'avete? No, non è certamente una fuga, questo è sicuro. Stato Renzi. No, accudisce Emiliano. No, perché questa storia dopo l'intervento. Dici che è andato con la canottiera o senza. Ecco, Andrea Orlando, ministro della giustizia, buongiorno. Insomma, buongiorno. Avevamo già paura che fosse fuggito, invece no, solo, non ero fuggito, solo caduta la linea. Io ho paura che mi avevate buttato giù il telefono. Ah, vedi, ha capito. Siamo tutti in piena buona fede. Senta, allora, questi voti quanti sono? 4 in più, 4 in meno. La sostanza è una polemica di qualche peso o no? No, io penso che sia un bel risultato. È soddisfatto, parte del... sì. Beh, sa, avevo su 20 segretari regionali 19 stanno correnti, commenta quella della Valle d'Aosta. Ah, vabbè, che si scia bene, ma insomma poco sì. Altro. Nell'Assemblea Nazionale il 90% sta correnti, tutto il governo sta di là. E poi guardi che al governo c'è anche lei, sta anche lei di là? No, al governo io non sto di là, però nei mezzi di informazione me lo sa dire meglio lei di me. Certo. Vabbè, lei è qui con noi. Senta, questa ferita di Emiliano un po' sembrava complicare le cose, in realtà si rinvia, no, non si rinvia la campagna. No, io ho detto che sarebbe stato un bel gesto di fair play che dava anche il senso un po' di una comunità. Hanno risposto. Renzi non è d'accordo. Non è d'accordo. Va bene. Senta, sembra giusto tenerne conto. Comunque, diciamo che lei lo stava dicendo, è soddisfatto del suo risultato finora, viste le difficoltà dell'operazione, diciamo. Beh, sai, io mi sono candidato all'ultimo momento, non certo. Sono un signore delle tessere, in giro per l'Italia non abbiamo fatto tesseramento e in questo quadro dato credo che abbiamo una base per poter giocare bene la sfida certo. Del 30, che poi è quella vera. Certo, su cosa ha puntato di più in questo giro? Ha scelto dei temi specifici? Sì, guardi, quella dell'unità del Partito Democratico e dell'unità del centro-sinistra come condizione per non perdere le prossime elezioni. Certo. Io penso che noi abbiamo una linea che, se portata avanti in questo modo, oggi rischia di portarci a una sconfitta alle prossime amministrative prima e poi alle elezioni. Alle politiche. Senta, Renzi dice chi perde deve accettare il risultato. Mi pare che lei ce l'abbia nel suo DNA, quello dell'unità del partito, no? Io ho perso diversi congressi, l'ho sempre fatto, mi auguro che lo faccia anche Renzi, perché spero di poter vincere. Certo, poi in ogni caso se capita è pronto, non è un problema, no? No, basta che questo non voglia dire il silenzio, ma no, naturalmente. Continuo a dire che... Beh, lei spera di vincere, naturalmente, logico. No, non solo, ma che io questo l'ho sempre fatto, Renzi non sempre, però devo dire che... Renzi ha perso delle primarie, è andato all'opposizione e poi le ha rivinte anche lui, insomma, in qualche modo. Diciamo, l'atteggiamento è quello, mi sembra, no? Sì, Renzi no, da questo punto di vista gli va dato atto, ma va anche detto che noi abbiamo, che lui ha detto un'altra cosa, che non si deve bombardare il quartier generale. Io non l'ho mai fatto, lui qualche volta gli è capitato. Certo, eccomi no. con Letta mi sembra di sì. Senta, no, parlo anche prima. Senta, ma su che cosa senta di essere più lontano da Renzi in questa campagna elettorale? Sicuramente semplicemente sulla concezione del partito. Io considero lì un partito legato a una persona sola in questa fase storica una debolezza piuttosto che una forza. Io credo che noi dobbiamo costruire un partito che abbia una classe dirigente plurale, inclusiva, in grado di tenere insieme delle storie politiche diverse. La vocazione maggioritaria in questo momento si difende così. Così, allargando lo spettro della classe dirigente. E da Emiliano che cosa la tiene più lontano? Ma guardi, a Milano somiglia per tanti aspetti molto a Renzi da questo punto di vista. L'idea, insomma, che un uomo da solo, grazie alla propria forza, alla propria capacità, riesca a risolvere il momento politico, è un'idea che è non diffusa, va bene. E di cui in qualche modo è portatore anche Emiliano, anche se in una scala più locale. Non è un caso che Emiliano allo scorso congresso sostenne con grandissimo entusiasmo Renzi. Certo, senta Orlando, una cosa che è rimasta un mistero per molti è su che cosa c'è stata la rottura con Speranza e D'Alema Bersani. Lei l'ha capito bene, sembrava la data del congresso. Sulle ragioni del malessere credo che si possa riflettere. Il malessere, d'accordo. Sul punto della rottura, francamente, anche per me è rimasto un mistero incomprensibile, e per questo ho sempre detto con grandissima nettezza che credo che si tratti di un errore molto grave. Insomma, il più grande partito della sinistra europea si spacca, si divide sulla data del congresso, chi lo capisce, bravo, insomma. E credo che sia stato davvero un passaggio abbastanza criptico per tutti. Troppe motivazioni individuali, forse. Molte motivazioni individuali. È poca politica. Beh, io credo anche una delle conseguenze di una fase in cui c'è una forte personalizzazione della politica, in cui, diciamo così, mettere davanti il punto di vista generale diventa complicato. Lì invece che noi. Non vale solo per Renzi, che si sono scontrati. Dietro c'era anche una difficoltà a portare avanti una discussione in un partito in cui le riunioni finiscono sempre più spesso come sono iniziate. In 5 minuti. È sempre più difficile ascoltarsi e essere disponibili anche a cambiare idea. Senta, che è una delle condizioni fondamentali per fare della politica. Senta, Ministro Orlando, girando per l'Italia, cosa ha sentito più forte oltre al bisogno di sicurezza, che è fortissimo? È una grande disperazione sociale, la gente è preoccupata perché non ce la fa, perché pensa di non farcela, perché non ce la fa più. Insomma, non ci sono solo quelli che sono rimasti indietro, ci sono anche tanti che hanno paura di rimanere indietro. Certo. Ed è la cosa sulla quale non avete riflettuto abbastanza voi? Beh, io penso che il referendum ci abbia detto prevalentemente questo. Noi credo che rilanciando soltanto le leadership non risponderemo a questa domanda, perché oggi avremmo dovuto fermarci, provare a interrogarci su questa domanda. Che era la sua linea. Guardi, esatto. Non è tanto il problema che avremmo potuto rispondere a tutte quelle domande, certo, ma almeno no. Le avremmo raccolte. Oggi molti di quelle parti di società si sentono totalmente ignorati, cioè questo disagio, da un'altra parte. Un disagio sociale che non è raccolto, e questa è poi anche una forza delle 5 Stelle. Il voto dei circoli nei quali Renzi ha stravinto, lei lo reputa regolare? Ci sono state discussioni sulle regolarità. Lo reputo assolutamente regolare. Il problema è come funzionano i nostri circoli. Ci sono realtà dove sono andati a discutere in 5 e sono andati a votare in 500. È assolutamente regolare. Non so se serva alla vita democratica del partito e alla vita democratica poi del paese. Comunque penso anche che va detto che almeno nel nostro partito si vota. Dalle altre parti c'è uno che decide, il che non dovrebbe essere, diciamo, non ci dovrebbe fare accontentare, ma purtroppo, data il quadro generale, ci deve persino fare. Insomma, comunque alla fine chi vince ha vinto, diciamo, no? Assolutamente, ma questa è una regola della democrazia. Sì, non c'è dubbio. Io credo di poter vincere anche per questo. Lei è appoggiato da Napolitano, un appoggio gradito? Beh, è un appoggio importante. Perché? È stato un presidente della Repubblica, è stato un grande dirigente politico della sinistra, come è la un uomo che ha saputo anticipare alcuni processi di cambiamento, un grande europeista. Come giudica la presidenza di Napolitano? Ma la giudico naturalmente con momenti alti, meno alti, ma con grande capacità di tutelare la dignità delle istituzioni e di tenere insieme un paese in un momento difficile del paese. Lei è stato ministro sia con Letta che con Renzi, a chi si sente più vicino? Ma io naturalmente in questo momento la Letta, perché ha fatto endorsement a suo favore. Sì, ma anche perché in questo momento stiamo dando una lettura comune, per esempio non abbandonare l'Europa come riferimento. Oggi Prodi dice l'Italia e l'Europa non contano niente. nel mondo? Io penso che, no, ho ascoltato Prodi, non era diciamo una presa d'atto, era un invito a costruire un esercito europeo perché si possa contare. Questo io sono assolutamente d'accordo. Sì. E a proposito della domanda di prima su Renzi e Letta, le vorrei dire che io riconosco che Renzi in una fase importante della vita politica ha dato un impulso, una scossa alla vita politica italiana. Che serviva, il problema sì. è che quella fase oggi si è esaurita, certo. e continuare con le stesse modalità rischia semplicemente di farci vivere una realtà parallela. Senta, Ministro Orlando, senza entrare nel merito del caso Emiliano, perché so che lei è Ministro di Giustizia, ma in generale c'è il problema delle porte girevoli tra magistratura e politica da risolvere? È un problema da risolvere, sì o no? Il problema esiste, la legge che è stata approvata dalla Camera mi sembra una buona base per affrontarlo e risolverlo. Ma lei si sentirebbe tranquillo di essere giudicato da un magistrato che la pensa politicamente diverso da lei e magari è stato suo avversario in Parlamento? Ma esattamente questo è il problema che viene affrontato da quella legge. Senta, Renzi ha l'ossessione del Movimento 5 Stelle, è anche una sua ossessione? Deve essere un'ossessione di tutti per due ragioni. Uno, per le cose che propone che sono incompatibili col nostro orizzonte, con la nostra prospettiva. Due, perché hanno preso tanti voti tra gente che votava nel centro-sinistra e chiedersi il perché credo che dovrebbe essere la nostra ossessione. Ha visto Casaleggio in TV? Casaleggio Junior? No, non l'ho visto perché avevo la conferenza programmata. Allora non le chiedo che impressione ha avuto. Senta, perché ha voluto mettere a verbale che la riforma della scuola sarà un problema per il PD in futuro? No, la ringrazio della domanda. Io ho visto che c'è stata un'indiscrezione che andava in questo senso. Io ho posto soltanto il problema se era giusto che una prova unica come quella degli Invalsi dovesse rimanere nel curriculum dello studente per tutta la vita. Poi quella prova io credo che sia una prova giusta che va fatta. Mi pare che diciamo si potesse discutere di questo, ma sicuramente do un detto positivo complessivamente sui decreti così come sono stati portati avanti, perché sono sicuramente un modo di recuperare un rapporto con un mondo che si è fortemente allontanato da noi. Senta, Ministro Orlando, si parla molto della resurrezione di Berlusconi, sta tornando, lo sente anche lei girando l'Italia? Beh, se non costruiamo rapidamente un fronte del centro-sinistra largo, civico, popolare, partecipato, sì, è possibile, rischio fortissimo. Cioè può essere lui che riaggrega il centro-destra, insomma. Beh, insomma, ci ha dato diverse sorprese. Accidenti. Senta, ma se vincesse lei, all'orizzonte del PD governato da lei, ci sarebbe un nuovo Nazareno? No, ci sarebbe Lo esclude? Ci sarebbe un nuovo centrosinistra, perché credo che questo sia l'orizzonte nel quale dobbiamo stare, e credo che per farlo dobbiamo anche rapidamente fare una legge elettorale diversa da questa, perché questa legge elettorale o ci porta alle larghe intese o a votare dopo 6 mesi, entrambe delle prospettive dannosissime per il Paese. Senta, prima del referendum, prima col referendum, adesso le primarie, adesso l'attesa delle elezioni, il mondo va a fuoco, l'Italia è immobile. La politica non dovrebbe sentire la responsabilità enorme di questa assenza? In questo senso mi ricollego a Prodi, che dice l'Italia e l'Europa non contano più nulla. Insomma, l'Italia in particolare sembra immobile. Beh, io ritenevo che all'indomani del referendum sarebbe stato utile appunto assumere subito delle iniziative piuttosto che entrare in una competizione interna. Si è deciso diversamente, adesso giochiamo questa partita al meglio e cerchiamo di renderla quanto più possibile utile per il Paese, ma è del tutto evidente che oggi manca un'iniziativa sull'Europa, manca un'iniziativa politica, non politica, tanto dei politica. Governi. No, politica. Perché io vorrei ricordare che il grande processo di integrazione europea è stato portato avanti dai governi, ma anche dal rapporto tra le forze politiche, i socialisti francesi con i democristiani tedeschi negli anni 80, ma prima le democrazie cristiane, italiana e tedesca al momento della fondazione. Se noi siamo tutti concentrati sulla nostra dimensione italiana, è difficile mandare avanti un processo di integrazione, ed è anche inutile continuare a dire colpa dei tecnocrati, perché i tecnocrati hanno preso il posto che la politica non perché la politica era assente. Senta, la legge sulla legittima difesa così non va. Cosa deve fare un cittadino per difendersi in questo caso adesso, questo Rambo che gira per le campagne e di cui tutti hanno paura ma nessuno lo prende? Ma guardi, in verità bisognerebbe fare un tagliando serio sulla legge, perché la stragrande maggioranza dei casi ha portato o all'archiviazione o all'assoluzione. Infatti. Se c'è qualcosa da cambiare, discutiamone. Quello che eviterei è di far passare l'idea che le persone in qualche modo devono essere messe nelle condizioni di difendersi da sole, perché di fronte a personaggi però come di questi, fatto, di un uomo di 80 anni con una pistola non credo che si riuscirebbe a risolvere il problema, e quindi credo che ci si tratti invece di garantire un presidio dello Stato contro queste persone. È vero che siamo il paese più vecchio del mondo, ma non è che tutti hanno 80 anni in casa, quindi sì, possono ma non essere anche più giovani. Tutti sono tax wheeler e quindi non credo neanche che tutti sono in grado semplicemente naturale di risolvere la questione con la pistola. Io non so se lei la maneggia particolarmente bene. No, io purtroppo io non ce l'ho, non so se purtroppo per fortuna, ma io mi troverei in difficoltà. Anch'io. Quindi credo che non possiamo delegare ai singoli la propria difesa. Quindi dopodiché non posso neanche immaginare di farmi difendere da lei, perché non le maneggia nessuno dei due. Vabbè. Faremo dei danni. Dei danni. Quello che credo che dovremmo provare a fare è, questo sì, capire se c'è qualcosa che non va nella norma, ma non far passare il messaggio che quella può essere la d'accordo soluzione. Senta, c'è lo Stato, ci deve essere lo Stato lì. Ecco, Ministro Orlando, un'ultima domanda. In politica il tradimento è un peccato o una virtù? Io credo che sia sempre un peccato, soprattutto quando è il tradimento dei propri ideali. Grazie Ministro, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66 sms. Allora, Mario, c'è una bolla? Io sì, certo. Allora, comincia una settimana di passione, non a caso arriva anche la Pasqua per i conti italiani. Segnalo che il documento di economia e finanza verrà presentato in ritardo e, secondo le ultime indiscrezioni, che poi verranno aggiornate, mancano per ora all'appello 800 milioni di coperture e provvedimenti vari. Vabbè, quindi ne parleremo appena avremo le cifre, perché ci vogliono le cifre. 800 di fronte milioni su 3,4 miliardi. È abbastanza. 25%. Salamino! Tenero, tenerone, altro che caimano, è un cucciolone, non cosciolone, cucciolone. Silvio Berlusconi rompe nella settimana pasquale mostrando il suo lato tenero. Abbracciata un agnellino chiamando al proprio fianco Michela, Vittoria, Brambilla e Francesca Pasquale, che fa miau, il cavaliere Silvio, fondatore delle libertà, collare dell'annunziata ambientalista, antemarcia di tutti i poli moderati, duce del popolo della partita IVA, federatore di tutti mangiapane a tradimento, signore indiscusso della tavernetta e della conseguente lap dance, cambia musica. E caro Giovanni si era capito al McDonald's, dove non aveva preso hamburger, grassi animali, grassi saturi, grassi molecolari e grassi gassosi, ma una salutare e salutista spremuta. Saria, quando ti vedo sai mi manca l'aria. Altro che cosciolone, Berlusconi è un cucciolone, non più. Non più, non più, non più. E neppure più. Meno male che Silvio c'è. La svolta è conclamata, perché c'è Heidi. Andrea Di Consoli sul Corriere della Sera di oggi offre una lettura ben precisa della scelta vegana del cavaliere e dice: con queste fotografie Berlusconi volta coraggiosamente le spalle a un pezzo consistente di quel popolo profondo, spesso pantagruelico, cioè praticamente chi mangia votava Berlusconi. Sì. Ora i casi sono due: o ha scoperto che la maggioranza degli italiani è contro la macellazione degli agnellini, oppure, dice ancora Di Consoli, questa tenerezza un po' anarchica prende il sopravvento a scapito dei calcoli elettorali. I lupi del consenso preparano gli agguati alle prossime elezioni. Non si sa se Cacciatore o Lupo e Matteo Salvini dobbiamo accorzare, insomma, si è rivelato un tenerone, sono calate del 30% le prenotazioni pasquali di abbacchi, capretti, agnelli, agnelloni, mondoni, crasti, crestagnelli, crestoni, però il castrato è troppo buono. Mario, non ti offendere, più della pecora bollita, insomma, chi nappi, solo cassatelli a Pasqua e l'agnellino. Prendi quell'agnellino, prendilo per il codino. Va bene, ricordo che dopo la pubblicità per i gialli della storia racconteremo il mistero della Moby Prince. A 26 anni da quel giorno ricostruiamo quell'incidente ancora avvolto nel mistero. Pubblicità.